Quest'anno diciamo che la festa nella giornata del 25 ricalcherà come spazi, orari e modalità in generale quello che è stata la festa dell'anno scorso e degli ultimi anni, considerando che anche quest'anno sarà limitata diciamo a Via del Pratello e non comprenderà Piazza San Francesco. La novità che abbiamo quest'anno è che il palco principale, quindi quello che è collocato in Piazza San Rocco, verrà montato il giorno prima e per il 24 al pomeriggio abbiamo previsto un programma in collaborazione con i ragazzi di Barricata 71 di reading, spettacoli teatrali, insomma, quindi non musica ma qualcosa di più d'ascolto, per diciamo fare una specie di overture diciamo di quello che sarà la grande festa del 25. Perfetto, invece per quanto riguarda il 25, appunto, ricalcherà un po' quello degli anni passati, ci saranno tantissimi interventi dal palco principale ma non solo, ora qui col programma davanti ne stavo vedendo qualcuno, diciamo in generale saranno tantissime poi le tematiche affrontate e appunto da ricondurre alla resistenza, ma in senso anche di resistenze nuove, diciamo di risignificazione, vedo penso alla partecipazione di One Billion Rising piuttosto che a quella del coordinamento migranti, insomma proprio tanti i temi trattati. Sì, assolutamente sì, diciamo che la caratteristica di cui tra l'altro andiamo molto fieri, e andiamo molto fieri anche quest'anno in cui mi sembra che il programma siamo riusciti a farlo particolarmente ricco, di Pratello Resiste è sempre stato quello di diciamo partire dalla memoria per aprirsi a tutte le resistenze dell'oggi. Come hai citato tu, prendendo One Billion Rising, c'è molto lato femminile anche in questa festa, quindi anche con le istanze noi ne siamo molto contenti. Tra l'altro c'è tutto un programma organizzato dalle signore del DITE, dal collettivo DITE, che lavora sul centro sociale La Pace di Via del Pratello, in Via Pietralata, con anche un flash mob previsto nel parchetto Tello Vignani. E poi lungo la strada e anche dal palco le tematiche affrontate sono tantissime. Insomma, il programma di quest'anno, da per questo che dicevo che siamo particolarmente fieri, è veramente ricco, insomma ci sono veramente tante cose, e poi cercheremo anche adesso a livello di comunicazione anche grafica di cercare di farlo arrivare il più possibile, perché poi la festa del 25 è talmente grande, talmente partecipata, che si rischia poi di perdersi insomma tante belle cose che ci sono. Quindi faremo anche una mappa tematica dove indicheremo punto per punto che cosa succede, e per il resto insomma mostre, concerti, interventi, dibattiti, c'è tanta roba insomma. Sì, il programma è veramente ampissimo, quindi ovviamente non possiamo parlarne adesso completamente diciamo, però appunto sulla pagina Facebook del Pratello Resiste nell'evento si trova già tutto. C'è tutto, è anche in aggiornamento perché poi ovviamente sono le cose dell'ultimo momento, c'è tutto, e c'è l'evento proprio dove c'è tutto il programma, e poi a breve anche in Via del Pratello troverete la mappa diciamo attaccata ai vari locali. E per quanto riguarda il corteo invece, anche quest'anno si concluderà poi al Pratello? Sì, il corteo è previsto in arrivo al Pratello, e noi come tutti gli anni saremo felici di ospitare un intervento dei partecipanti dal palco, insomma dal nostro palco. L'orario non credo che sia ancora definito al 100%, che poi ci sono sempre sorprese dell'ultimo, però assolutamente, quindi anche questo è un altro evento importante cittadino a cui noi teniamo, cui noi insomma tanti di noi fanno parte, e siamo molto felici che insomma le cose si uniscano insomma, per fare festa insieme. E a proposito poi della festa, diciamo della parte musicale anche, che poi ci sarà per tutto il giorno e che concluderà anche la giornata, ti chiederei se puoi farci qualche nome diciamo almeno degli artisti principali. Sì, allora guarda, sulla musica abbiamo come tutti gli anni cerchiamo di lavorare anche con realtà indipendenti bolognesi, quindi giovani cantautori, produzioni indipendenti, abbiamo un punto musica gestito da Piazza degli Indipendenti, un punto musica gestito da Dobrischi Prodischi, quindi piccole realtà che lavorano nel bolognese. Siamo molto felici, e insomma qui mi si stringe anche un nodo in gola, di avere il gruppo di Riccardo Pardos, che è un amico di Pratello Resiste, un nostro amico personale del Pratello di tanti di noi, che è venuto a mancare l'anno scorso, che era malato di SLA. La sua band si esibirà e aprirà il concerto dal palco principale, e questa è una cosa di cui siamo molto felici. Durante il giorno avremo, vabbè, dal palco principale poi ci saranno vecchie glorie, vecchie nuove glorie della scena musicale bolognese. Ci sono sono i Johnny Clash, ci sono le Tremende, che siamo molto felici anche di averle sul palco principale, e poi chiuderemo con gli Assalti Frontali. Poi ovviamente ci sarà la Bolotta Continua, altri vecchi amici di Fratello Resiste, e tanti altri gruppi, insomma, negli altri punti musica. I punti musica saranno, ce ne saranno alcuni lungo la strada, poi ci sarà il palco principale in Piazza San Rocco, come l'anno scorso, e un palchetto più piccolo, diciamo in Piazza San Francesco, però perché si chiama così, diciamo, però è praticamente lo slargo di fronte alla trattoria Fantoni, quindi all'inizio della festa, all'inizio del partello.